di nuovo verso i 400 punti. 50 immigrati sbarcati questa mattina nella Locride, uno è morto annegato. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Iniziamo con una notizia di poco fa che arriva dall'AIA. L'ex presidente della Liberia, Charles Taylor, è stato riconosciuto colpevole di aver ricevuto i cosiddetti diamanti insanguinati in cambio di carichi di armi e munizioni per i ribelli del Fronte Rivoluzionario Unito che uccisero decine di migliaia di persone e arruolarono bambini soldato durante la guerra civile della Sierra Leone avvenuta nei 10 anni che vanno dal 1991 al 2001. Adesso le notizie del giorno, iniziamo dagli ultimi dati Istat sui pensionati, sentiamo il servizio. Oltre un pensionato su 10 riceve meno di 500 euro al mese e quasi uno su 3 ha un assegno tra i 500 e i 1000 euro mensili. Dati non confortanti. In totale i pensionati sono quasi 17 milioni e tirando una linea e facendo una media percepiscono circa 15.000 euro l'anno. Più o meno la metà ha superato i 65 anni. Una bella percentuale e questa è per certi versi una buona notizia. Ne ha più di 80. In molti, quasi il 30%, sono sotto i 65 anni. Per lo più i titolari di assegno previdenziale hanno una pensione di vecchiaia, risultato di un unico trattamento. Un pensionato su 4 ne percepisce 2 e poi c'è anche chi, ma sono in pochi, ne porta a casa 4 e più. Le pensioni di invalidità arrivano a 5 milioni di persone, mentre il gruppo più sparuto è composto dai titolari di pensioni di guerra. Dal punto di vista della spesa, nel complesso le prestazioni previdenziali costano oltre 258 miliardi di euro, in aumento rispetto all'anno precedente, ma leggermente in calo rispetto alla sua incidenza sul prodotto interno lordo. Ultima notazione, ancora una volta non incoraggiante per le donne, rappresentano la metà dei pensionati e una su due percepisce un assegno inferiore ai 1000 euro al mese. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci spostiamo a Bruxelles, dove Mario Monti ha incontrato poco fa gli industriali e ha parlato naturalmente anche con i colleghi europei. Allora da Bruxelles l'inviato del Sole 24 Ore, Beda Romano. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha pronunciato questa mattina un discorso a Bruxelles in occasione di un convegno della Confindustria belga. È stata l'occasione per il Presidente del Consiglio di intervenire nel dibattito di questi giorni su come rilanciare l'economia europea continuando comunque a risanare i conti pubblici. Mario Monti ha sottolineato più volte l'importanza di comunque continuare a ridurre l'indebitamento, ha messo l'accento sull'importanza delle riforme strutturali all'economia, ma ha fatto notare come riforme da sole non possono creare nuova crescita. In questo senso ha spiegato che per creare nuova crescita e quindi accelerare anche la riduzione dell'indebitamento è probabilmente necessario un programma di investimenti pubblici e privati. In questo senso il Presidente del Consiglio ha proposto che gli investimenti, il calcolo degli investimenti non venga calcolato nel disavanzo pubblico. Ha quindi riproposto un suo vecchio cavallo di battaglia, ossia la regola d'oro, che prevede giusto appunto il non calcolo degli investimenti pubblici nel disavanzo dello Stato. Bene, grazie a Beda Romano da Bruxelles. Questa mattina della situazione economica ha riparlato anche il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e ha detto tra le altre cose l'Europa deve dotarsi di un meccanismo per la risoluzione delle banche in difficoltà, vale a dire per una ristrutturazione delle banche in difficoltà fatta in maniera coordinata. E a proposito di banche, questa mattina il Santander, la principale banca spagnola, ha registrato utili in picchiata nel primo trimestre, ha registrato un utile di 1,6 miliardi in calo del 24%, gli accantonamenti sono stati 3,1 miliardi di euro saliti del 51%. E a proposito di numeri e di mercati finanziari, in diretta Deborah Rosciani, buongiorno Deborah. Sì, buongiorno. Tra l'altro che le banche spagnole fossero in difficoltà lo sapevamo da tempo, ma ieri per la verità avevano sorpreso il mercato i risultati invece dell'altro colosso bancario spagnolo BBVA, il Banco Bilbao Vizcaya, ma a quanto pare non per tutte le banche la situazione è la stessa e questa mattina mattina di nuovo le banche sono protagoniste della seduta, perché in particolar modo a Piazza Affari sono tutte in discesa molto consistente e trascinano a ribasso l'intero listino, FTSE MIB meno 1,23%. Cosa succede sul mercato oggi? Che c'è un inevitabile freno dopo i vistosi rialzi degli ultimi due giorni seguiti a lunedì in nero, e quindi gli operatori oggi hanno preferito prendere profitto, incassare dei guadagni delle ultime appunto due sedute. Parigi segna meno 0,9%, Francoforte meno 0,49%, sulla parità Londra, che invece ieri era stata più penalizzata nonostante la buona giornata a causa dell'ingresso formale in territorio recessione, appunto, che ieri è stato definito così dall'Istituto di Statistica britannico. Questa mattina c'era un importante appuntamento con il Tesoro, il Ministero dell'Economia, che ha assegnato in asta 8 miliardi e mezzo di bot semestrali, un'asta molto attesa. Il rendimento medio lordo è salito all'1,77%, come nelle attese, però c'è stata una buona domanda, perché gli investitori hanno chiesto 14 miliardi e mezzo di titoli. Ricordo che il bot semestrale è arrivato a toccare novembre scorso un picco di rendimento del 6,5%, per poi scendere al 3,5% di dicembre. Siamo ancora sotto il 2, ma abbiamo ricominciato appunto a salire. Questa situazione stamattina ha rideterminato una salita dello spread, che è di nuovo a ridosso dei 400 punti base. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Di economia e conti pubblici si discute anche in Parlamento. È iniziato nell'Aula del Senato l'esame del documento di economia e finanza. Ci dice tutto in diretta da Roma Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Si è iniziata la discussione generale nell'Aula del Senato e della Camera sul DEF, il documento di economia e finanza, prevista anche la presentazione della risoluzione di maggioranza che punterà sulla crescita, la priorità dell'azione di governo da perseguire con assoluta determinazione a livello interno e anche a livello europeo. La ratifica del Fiscal Compact deve essere accompagnata dall'impegno per una politica di investimenti finalizzati allo sviluppo delle imprese e dell'occupazione. Il sostegno a questa politica per la maggioranza può derivare dalle emissione di project bond o dagli euro bond per accelerare l'abbattimento dello stock di debito pubblico, scrivono poi PDL, PD e UDC. Va valutata la possibilità di adottare un piano straordinario di dismissione del patrimonio pubblico. Le risorse della spending review e della lotta all'evasione devono essere prioritariamente destinate alla riduzione delle tasse sui redditi da lavoro e da impresa. Ecco quindi la prima bozza della risoluzione della maggioranza alla Camera sul DEF. Ricordiamo che il voto è previsto alle 17 al Senato e poco dopo nell'aula di Montecitorio. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Adesso parliamo di una questione di cui si è discusso nelle ultime ore, dell'acquisto di auto blu, ma che non ci sarà, lo spiegano il Ministero della Funzione Pubblica e quello dell'Economia. Sentiamo il servizio. Nessun acquisto, solo un accordo per bloccare un prezzo. Così la Consip, il braccio operativo del Ministero dell'Economia, smentisce la notizia diffusa da diversi giornali dell'acquisto di 400 auto blu da parte del Ministero. Una notizia che aveva fatto arrabbiare i lettori e anche il popolo dei social network. Il giornale aveva parlato di una spesa per lo Stato di 10 milioni di euro per berline di media cilindrata. Invece le cose starebbero diversamente, spiegano i funzionari, che il bando non riguarda l'acquisto di auto, ma un accordo con dei fornitori per bloccare il prezzo di queste auto, semmai in futuro la pubblica amministrazione ne avrà bisogno. In realtà, dicono alla Consip, nessun veicolo viene acquistato oggi. Intanto il Formez, il Centro per l'ammodernamento della pubblica amministrazione, ha calcolato che il parco macchine della pubblica amministrazione ammonta già a quota 60.000, con 800 vetture che giacciono inutilizzate nei garage. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora le ultime notizie delle indagini e dell'inchiesta che coinvolge i vertici di Finmeccanica. Nuovo interrogatorio fiume per Walter Lavitola. Ieri a Napoli l'ex direttore dell'Avanti è stato sentito per ore dagli inquirenti, che si sarebbero concentrati soprattutto sulla parte dell'inchiesta che riguarda i presunti fondi neri accantonati da Finmeccanica sovraffatturando commesse ottenute all'estero. Si cercano riscontri su quanto rivelato spiegato dall'ex dirigente del gruppo, Lorenzo Borgogni, secondo il quale con quei fondi neri sarebbero state pagate tangenti. A beneficiarne, oltre alla Lega Nord, sarebbe stata anche Comunione e Liberazione, il movimento vicino al governatore della Lombardia, Formigoni. Nuovi forti sospetti si addensano intanto anche sul presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, indagato per corruzione internazionale e riciclaggio. Fra le piste seguite dai magistrati napoletani in queste ore c'è anche quella di sei Maserati che si sospetta possano essere state acquistate con gli stessi fondi utilizzati per pagare le tangenti. Di queste automobili due sarebbero state inviate negli Stati Uniti, una a Londra, mentre le altre tre sarebbero state intestate a persone ritenute vicine a Orsi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di alta velocità, dell'alta velocità Torino-Lione. Continua il dibattito e oggi se ne parla sia a Roma che a Torino, in diretta dalla capitale. Alessandra Schepisi, buongiorno Alessandra. Sì, un'opera prioritaria, fondamentale e trasparente in tutti i suoi aspetti, un'opera che il governo sostiene in pieno e che va accelerata, così il ministro dello sviluppo economico Passera è intervenuto alla presentazione dell'analisi costi e benefici della nuova Torino-Lione che si sta tuttora svolgendo presso la sede del ministero. Passera ha sottolineato l'importanza non solo dal punto di vista economico ma anche strategico e geopolitico del corridoio. Se non lo facessimo saremmo criticati, ha detto il ministro, mentre ha definito non accoglibili le critiche di chi si oppone. In particolare Mario Virano, presidente dell'Osservatorio sulla TAV, ha parlato di opera che porterà al dimezzamento dei tempi di percorrenza tra Italia e Europa, assolutamente necessaria in quanto l'attuale ferrovia non è in grado di intercettare la domanda esistente. Ma intanto da Torino arriva un messaggio di diverso tenore: 365 tra tecnici, esperti e docenti di tutta Italia, riuniti oggi in un convegno al Politecnico, sostengono infatti che la nuova ferrovia non è giustificata da valutazioni tecniche e scientifiche credibili, l'incertezza sui costi di realizzazione, problemi legati all'impatto ambientale, previsioni infondate e arbitrarie tra le obiezioni che questi esperti notavi muovono ai tecnici invece favorevoli. Dunque battaglia di cifre, seppur a distanza, su un'opera destinata sempre a far discutere. Da Roma è tutto. Queste le notizie principali all'interno di GR24. Meno di 1000 euro al mese per quasi la metà dei pensionati in Italia. Monti a Bruxelles dice no a politiche vecchio stile pro deficit e, parlando agli industriali, dice: abbiamo imposto all'Unione Europea il tema della crescita. Tutto esaurito per l'asta dei bot, ma tassi in crescita e spread di nuovo verso i 400 punti. 50 immigrati sbarcati questa mattina nella Locride, uno è morto annegato. Riprendiamo dalla cronaca, partendo proprio da questa vicenda: un morto e un ferito in rianimazione. Il bilancio di uno sbarco di immigrati avvenuto questa mattina a nord di Locri in Calabria. Gli immigrati, una cinquantina provenienti dall'Afghanistan, sono stati lanciati in acqua poco distanti dalla riva dagli scafisti. Ed ora ci spostiamo nel Padovano. Un tabaccaio ha esploso un colpo di pistola uccidendo uno dei ladri che stava tentando un furto nel negozio. È accaduto a Civedi Corezzola, in provincia di Padova. La vicenda si è svolta nella notte. I ladri erano nel negozio, il tabaccaio era a casa, al piano di sopra. Ha sentito dei rumori, ha preso la pistola ed è sceso a controllare. Visti i ladri, ha sparato un solo colpo, che è stato fatale per uno dei rapinatori. Aveva 20 anni ed era moldavo. Gli altri complici scappano con la refurtiva, un'auto piena di stecche di sigarette. A vegliare il morto resta il tabaccaio, fino a che non arriva la polizia. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Padova ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Non è escluso che lo stesso tabaccaio venga iscritto dal PM nel registro degli indagati. Al momento pare come atto dovuto. Al commerciante è stata sequestrata l'arma che aveva con sé, una pistola regolarmente detenuta. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso cambiamo argomento. C'è attesa per i conti della Fiat che verranno diffusi oggi alle 15. Nel frattempo ci sono buone notizie per il settore dell'auto, positivi sia i conti di Chrysler sia quelli della Volkswagen. Facciamo il punto in diretta in studio con Andrea Malan. Buongiorno Andrea. Buongiorno, sì, i dati di Chrysler annunciati stamattina sono ottimi: aumento del fatturato del 25%, utile operativo del 55% e un utile netto che è più che quadruplicato rispetto allo stesso periodo del 2001. 2011 a quasi 500 milioni di dollari. Questo ha permesso tra l'altro alla Chrysler di ridurre il debito più che dimezzato a 1,3 miliardi di dollari a fine periodo. Da dove viene questo ottimo andamento? Viene soprattutto dall'aumento del 40% delle vendite di automobili Chrysler negli Stati Uniti, quindi il mercato principale, nei primi tre mesi dell'anno. Chrysler ha cavalcato la ripresa del mercato facendo anche meglio. Come avete detto, questo pomeriggio arriveranno i conti di Fiat. Le previsioni degli analisti sono che la casa americana riuscirà in qualche modo a compensare le difficoltà che ha Fiat in Europa e prevedono un utile operativo per il gruppo di 850 milioni di euro, di cui 710 forniti dalla sola Chrysler. Bene, grazie ad Andrea Malan. Allora, più tardi naturalmente vi aggiorneremo anche sui conti di Fiat. Adesso parliamo del settore aereo. La compagnia aerea Wingjet, il cui intero pacchetto azionario è stato acquistato da Alitalia, ha avviato le procedure di mobilità per i suoi 504 dipendenti. L'acquisizione definitiva di Wingjet da parte di Alitalia è condizionata dalla decisione dell'antitrust e, in caso di parere positivo secondo i sindacati, si potrebbe avviare una trattativa per l'assorbimento del personale. Potrebbero arrivare presto norme per rendere più semplici i licenziamenti disciplinari per i dipendenti pubblici. Lo scrive oggi il Sole 24 Ore in prima pagina. Obiettivo: ricalibrare il sistema delle sanzioni e introdurre una serie di ipotesi di giustificato motivo soggettivo. Abbiamo sentito Gianni Faverin, segretario della CISL Funzione Pubblica. Su queste ipotesi non abbiamo ancora aperto nessun confronto, è una delle tante che girano. C'è aperto un tavolo col ministro Patroni Griffi, ci sembra abbastanza strano che possa essere un'ipotesi di questo tipo, perché a quello che noi conosciamo i licenziamenti per motivi disciplinari nel pubblico sono molto regolamentati in maniera molto chiara, con un codice riportati nei contratti di lavoro, quindi siamo in attesa di capire, ma siamo sicuri che regolamentare al meglio la parte disciplinare della condotta del lavoratore significa aggiungere maggiori garanzie dal nostro punto di vista. Semmai può esistere una questione sul fatto che poche volte i dirigenti applichino bene le regole scritte nei codici disciplinari e che invece consentono di distinguere il lavoratore che fa bene, molto bene il suo lavoro, da quelli che in qualche caso possono non fare il bene del loro mestiere, insomma. Quindi noi aspettiamo il tavolo, perché sarà al tavolo, che è già aperto e che ha già avuto tre incontri, che si porterà avanti l'applicazione dell'articolo 18, che, ripeto, c'è già nel pubblico impiego e bene normato soprattutto nella parte disciplinare. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Torino, dove questa mattina è stata presentata la nuova edizione del Salone del Libro, in programma dal 10 al 14 maggio. Tema: le nuove tecnologie. In diretta da Torino, Alessandra Tedesco, buongiorno. E sì, visto che di book si parla da alcuni anni, il Salone del Libro di Torino stavolta non poteva che essere dedicato alla primavera digitale. E-book e libro cartaceo, non un contrasto, ma una pacifica e costruttiva convivenza. Al Salone si cercherà di capire come la rete sta influenzando la scrittura e la lettura. Le case editrici, circa 1200 gli espositori, presenteranno dunque i libri tradizionali, ma anche le novità in e-book. Due i paesi ospiti di questa 25esima edizione, Spagna e Romania, per far conoscere in quest'ultimo caso agli italiani la letteratura di una comunità molto presente nel nostro paese. Come sempre, il Bookstock Village, lo spazio dedicato ai giovani fra i 14 e i 20 anni, con presentazioni e laboratori ad hoc. Fra gli ospiti stranieri più noti che saranno presenti al Salone del Libro ricordiamo Mankel, uno dei maestri del giallo svedese, Tarber Jalun, che parlerà della primavera araba, l'inglese Patrick McGrath, autore del bestseller Follia, e infine il cileno Luis Sepúlveda. E prima di chiudere vi ricordo che Radio 24 sarà presente al Salone di Torino con i suoi studi nel padiglione 2, e sul nostro sito www.radio24.it potete partecipare al sondaggio su ebook e libri cartacei. Da Torino è tutto. Bene, grazie ad Alessandra Tedesco. Adesso abbiamo due notizie che arrivano dall'estero. Prima di parlare di calcio, un'esplosione ha distrutto un edificio nella città di Hama, nel centro della Siria, causando la morte di 69 persone, tra cui molti bambini. Sarebbe stato un razzo lanciato dalle forze di sicurezza di Damasco a distruggere la costruzione. Intanto i ministri degli esteri della Lega Araba hanno convocato per oggi pomeriggio al Cairo una riunione straordinaria sulla crisi in Siria, dove le violenze continuano, come avete sentito, malgrado l'invio di un primo gruppo di osservatori ONU. Nella riunione si parlerà anche dell'escalation del conflitto fra Sudan e Sud Sudan. La Lega Araba ha detto questa mattina che ospiterà il 16 e il 17 maggio una riunione allargata delle opposizioni siriane con l'obiettivo di unificare i fronti anti-Assad. Nuovo interrogatorio per Rupert Murdoch, che ha accusato un direttore del defunto tabloid News of the World di avere tenuto all'oscuro i vertici della società ed orchestrato l'insabbiamento delle intercettazioni illegali del giornale. Siamo tutti vittime, ha detto Murdoch, scusandosi con i giornalisti del tabloid che hanno perso il posto quando a luglio è stato chiuso il giornale. E adesso, come vi dicevo, parliamo di calcio. Dopo una giornata che ha visto alcuni recuperi, i recuperi della Serie A e anche la Champions League. Buongiorno a Dario Ceccarelli. Sì, buongiorno Enrico, partiamo dalla caduta dei fenomeni. Dopo il Barcellona, infatti, è caduto anche il Real Madrid, sconfitto ai rigori da un Bayern Monaco che alla fine, nella cosiddetta lotteria dei rigori, sbaglia con Cristiano Ronaldo, Kaká e Ramos, mentre Mourinho, sembrava Robespierre alla ghigliottina, era in ginocchio sul campo. Una semifinale vibrante come quella precedente tra il Barca e il Chelsea, che comunque porta in finale i tedeschi e gli inglesi nel solco proprio tradizionale del calcio europeo. Senti, ma questo Bayern ha meritato o c'è stata una buona componente di fortuna? Ma guarda, il Bayern ha avuto un merito, quello di non lasciarsi mai andare anche quando era sotto di due gol. Certo che è clamorosa la caduta dei due grandi di Spagna, perché prima la pulce Messi, poi l'uomo bionico Ronaldo. Evidentemente lo scontro nel campionato spagnolo ha logorato i due club. Anche gli allenatori sono rimasti un po' così traballanti. Mourinho, che già accarezzava l'idea di una egemonia mondiale, ora cerca di consolarsi pensando ai prossimi impegni. Sentiamo Mourinho. Triste però tranquillo, arrivare ai rigori, fortuna per loro, il calcio è così, la vita è così, domani un altro giorno, domenica un'altra partita e cerchiamo di vincere il campionato, che in questo momento è il più importante. Per Guardiola invece il futuro è più incerto, il Barcellona lo vuole tenere, non considera chiuso il ciclo, ma lui ha dubbi sul suo futuro e intanto Milan e Inter restano allerta. Ecco, a proposito di Milan e Inter, siamo passati così al nostro campionato con la Juventus che sta procedendo verso lo scudetto, punto interrogativo. È una parola che non si può dire perché sai, i tifosi juventini su questo sono molto sensibili, comunque diciamo che si avvicina. La Juventus infatti mantiene 3 punti di vantaggio sul Milan battendo il Cesena. Pirlo ha sbagliato un rigore, ma Borriello ci ha messo una pezza segnando un gol pesantissimo. Per la Juventus, va notato, è la 7ª vittoria di fila e poi c'è una partita comunque in meno e quindi insomma ci si avvicina al traguardo. Il Milan resiste con un gol di Boateng, allo scadere batte il Genoa, ma insomma ha penato un po'. Poi c'è l'Inter di Stramaccioni che batte l'Udinese, sale al 5º posto approfittando della crisi della Roma e della Lazio che si fa battere dal Novara. Nella Roma prosegue la contestazione a Luis Enrique e mi sembra che ormai siamo vicini al divorzio. Enrico. Bene, grazie a Dario Ceccarelli. Naturalmente per parlare di calcio vi rimandiamo anche all'appuntamento con A Tempo di Sport dopo il GR delle 14. È tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Pagliarini. Ringrazio Paolo Corleone che si è occupato della parte tecnica. GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.